Buonasera Nato. Cos'è? Buonasera comunque. È auguri. Sì, altrettanto. Buonasera. Aspetta, grazie Pimparello. E perché? Faccio solo, male mi si. Oh. Faccio un abbassare il volume. Oh, vai in cerca tu. E io mi c'è a capo in cima da chi? Poi si alzo, poi si alzo, boh. Grazie con l'influenza. Sono un edo. Aspetta. Sono ancora con un raffreddore io. Che si pulsa, Coppo su Bellano di altre medicine e poi gli si gioca ancora con un raffreddore. Ehi, caccia. Allora, scusa per la diabete, davvero. Se mi sento male una cosa ma prendo. Caccia. Cosa fai? Caccia, facciamo un raffreddore e vado a finire la bacchiglia. E chi dà ragione a Oia. Lo so, ma purtroppo il raffreddore non voglio fa bloccarlo, è inutile che lo blocco, lascia andare e continua a andare, sta se ne andare a giura. Però è fatto ghiccio che tu ci vedi troppo alla cuccia, troppo che lo conti, avrà vero, ti attacca al raffreddore. Veramente me ne hanno abbassato, non è che era meraviglia giubilata al coso, me ne hanno abbassato. Vabbè, per l'altro virus, e bisogna essere attenti. Vabbè. Bisogna lasciare andare a giura. Cazzo, e ci vuole Maria, ma è detto, e non fa. Cazzo, è pure fuoco, ma chi? Ah, io so sì, faccio caro gallo, e ci sono, ma... Fate già Edo. Non voglio andare, se vai in tutto, non voglio andare. E infatti, esatto. Ah, ci stavo per uscire stamattina, la prezzi vendola. Ah, già ne ho fritta, mi si chiede tu. Ah, cosa esce a fare? E non mi sono riuscito, per cui... E chi dà ragione? Adesso mi dà un po' domani. Ma non ci serve niente, con gli audiati. In giro, saranno. Sì, dice il vero. Ma arriva la sera, non so che è una donna che accompagna a me nel mondo. Ha detto, oh, dove c'è nessun luogo? Ah, la gente a me veniva, arrangiati. E infatti, sono arrangiati. E fatto così, infatti, mi viene l'accompagnato Edo, si gira a Buddha, là, andare in palestra. Ha fatto così. E tu a casa, fai bene. E bisogna che andare a fare anche una volta anche loro, beh. E chi ha ragione. No, io ho acceso ieri sera, ma non c'era nessuno, lo aspetto. Ma aspetto subito, guarda. Così che... c'era sempre gente che si chiede, non accendevo nemmeno questi giorni, e cosa fai? Cazzo, non si chiede, non accendo un po', ho visto la chiamata tua, anche quella di Marino, però sai io un messaggio non riesco a mandare un po', comunque già ho letto tutto, ti ringrazio. Sì, non ti ho messo nulla. Se non c'è riesci, pazienza, ma è importante, no? Hai fatto bene, non è letto solo, e già va bene così. Ma, allora, c'erano sempre gente, per cui ieri sera l'ho acceso, non c'era nessuno, allora fino a te ho aspetto, tu, e lui è qua. Sono tutti morti, tutti vabbè, pazienza. Che giocare, sono invece quelli che sono invece una giara mentata. Ma io Giobbe ci può entrare o non può entrare. Se non si vuole un'antenna. Almeno ce l'avrà un'antenna. Penso ne avrà qualcuno. Allora. Ce l'ha cadì e stava parlando qua, vuol dire un'antenna ce l'ha. E l'altra era la rotta. Ma stava parlando con lui a telecorte. Perché vuol dire che non ce l'ha l'antenna? Magari c'è la stoppa con l'antenna lì, no? Purtroppo è così. Una cosa dico, se non può entrare non entra, è una gara, pazienza. Era sempre la memoria, certe volte se abbiamo altre cose a fare o ci sono ospiti, e lo fai. Chiaro, quando ci può entrare c'è, però pazienza, infatti, quando ci può entrare c'è, e no, pazienza, la bella cosa da fare. Allora, infatti, cazzo, non è che dobbiamo stare sempre attaccati a questa roba, no? Certo, se non ce la fare niente, allora io accendo. Però ripeto, se non c'è nessuno, chiaro, cosa fai? Anche c'è un guarem. Se niente mi fermo, chiacchiero se posso chiacchierare. Se non c'è nessuno, chiaro, non mi spengo. Magari io aspetto 10 minuti dopo le 7, quando non entro nessuno, bene, tengo tu. Io pure gioco fatto così, quando non risponde nessuno, e non entra nessuno, mi chiudo. E se la prendono in quella meraviglia di paese. Infatti, cosa? Hai da ragione, andiamo bene, andiamo. Certo. Invece ma la salute da voi, un resto si rivede piano piano, so. Sì, infatti, un resto viene piano piano, sì. Hai da ragione. Tanto, avanti, da un po' male, non riesci a male, ma non andrà a giocare, ragazzi, sì. E a un diante. Non lo so, a mappi da molto male. Ma dai pure che andare a posto, non lo so, ma dai pure andare a posto domani. Ma che ti bagagli! Ma domani è 4. Progetto domani è 4. Ma dentro io devo ritirare la vintui allo salto. Ma vabbè, ma io faccio le cose della banca, del banco, ma ho fatto tutto così. E qui ce l'hai accreditato lì, io non ce l'ho accreditato, non mi va e ce l'hai accreditato, mi dai a farlo, ma no, se vado io, tappo su cammino ancora, devo rendire questa. Poi sto con Matteo del capo, ma che paese chi? C'è da quello che tu sei, ma che è per mantenere i tiri, niente? Io sono i bagni di niente ogni anno, lo sanno loro. Appunto vaghissimo. Perché posso camminare, guarda, non posso camminare, la moglie, mi metteremo. E cammino ci accorto a trovare il ragazzo. Stravando, me la ritiro io. E ci hai fatto così, la ritiro io, boh. Sono rifatto. Allora, cosa vuoi fare? La prossima volta c'è la gola, così che se non mi serve a che cosa. Poi basta e siamo in casa. Ah, io sì. L'ultima preoccupazione. Quando a muovere, purtroppo. Dove mi dico? Un pochettino domani. Che se ci bottiglia più. Ma le feste a casa te le hai fatte oppure se ti ci si trova? Oh là, vado sul luogo, tutto in casa. La via è indomani. Vabbè, non è la stessa cosa, La stessa cosa. Certo. Sto finito di sedere, ma qualche volta si può uscire quando sento meno la persona, qualche volta però, sto più come prima, gatta. Sto finito di sedere, sto odiato, sto addolorito, gatta, di mare che poi sei sicuro di dolore. Non faccio, non puoi andare, certo. Con questo raffreddore gli faccio, vedi, darò a pesci. Certo, non si può andare a nessun luogo. Prima dell'anno mi, proprio mi ha giumigliato. Tu magari prendi qualche colpa d'aria, come fai a portare giù il cane, ma eri in casa magari esci fuori, c'è roba di tanta beccata. Infatti, è proprio così. L'ho portato la sera che l'ho portato pure la mattina e poi ho cominciato a pernottire i volti. E trinchili. Ecco qua. E purtroppo bisogna fare pure quello lì. La volta che l'hai l'animale bisogna tenerlo conto. Io non ho più animali, non in casa. Nulla. Devo essere tranquillo e pacifico. Io sto buttando anche in campagna. E tutti i giorni sto facendo in campagna. Ed era una rottura, Cazzo. Allora, né in casa né in campagna. Fatti così. Ti dico, prendi un animale e allora dopo te lo devi tenere sacrificato. Se parlava, ce l'ho così e non tengo così. Faccia, no, la volta c'è per mettere il percorso. Però ripeto, io ho avuto gli animali perché mi sono piaciuti, capito? Però in casa ho tenuto solo gli occhiali di mia figlia, forse maggiore perché magari non c'era qua, ma se no non li volia, non le volevo. Però quando ce l'hai tu, non li puoi fare almeno, allora ti ha tenuto il conto. Sono morti normalmente. Non le voglio più animali in casa, le case le campagne. Infatti a mia figliola l'ha detto, per tanto testarda lì, se dovevi abbattere mi ha regalato la stessa. Certo. Ma un sacrificio, ciò che a chi ci piacciono gli animali, le vanno pazzi. Però lo sono tutti, per cui io li ho avuti, li ho tutti conti sempre, per cui adesso non li voglio più, chi ce l'ha si arrabbi. Infatti, è così, purtroppo, non si può fare nulla, piano, poi devo scendere giù. Forza maggiore, cazzo, allora cosa ce l'hai a fare? È meglio non averli, almeno c'è problemi di nulla. Sarà, è una preoccupazione sempre, come una persona umana, è la stessa cosa. Sì, infatti è così. È come una persona, io voglio devi accompagnare. Se non ha giocato io già per pensare a tirarti. Già si tira, no? Certo si tira. E dici, la panica che bombetta, amico. Ui, è poco cammina. c'ha paura, capito? C'ha paura, cerca di ricagiarsi più che possibile. E beh, gli animali solito sono tutti così, io qua, quando senti proprio bene, girava la testa, aria gatta. Non la finivo più chiacchierando. Sì, lui invece ci voglia. Si mette a tremare, si mette. Si è venuto così di prima e lui invece vuole il dottor Igurori, fa calmarlo, ma che nulla va va. Bisogna che non ne senta. Però male quell'altro l'avete lasciato là, l'avete dato, sì, no, era in due ed era un figlio. Ma l'altro hanno delle cose di botte, no, non ne temeva l'altra. Chissà che non è di mia. Di botte non ne temeva quella lì. Anche la madre. Chissà, molto brava era. Se ti vedeva che cosa ti aggiudava. Allora sono carattere diversa di allora. Chissà fa cosa è diversa. Di solito gli animali a questo rumore così hanno paura, capito? Ma evidentemente qualcuno non ha paura, per cui è normale, va. Io te la toglio. No, tu non fai nulla, non fai. Ciao Antonio. Ciao, auguri a tutti e due, anche se ritardo. Ormai è già passato Natale, Pasqua e Capodanno. E beh Antonio, buonasera. E auguri anche a te, mi. Sono passati, ma ti ha fatto per piacere, non ti sembra? Già va bene, diceva quello. Allora, tutto bene, sì? Sì, più o meno sì, no, perché altro già. Andiamo bene. E io così, faccio. Infatti, meglio così, passato tutto, Avanti, te me l'avevo fatta, dopo rientrando a cura di domani. Mi sa che c'è ricca, l'avevo fatto. Ma mi pare che fanno il maestro con papà, la buru che stanno. Domani è sempre la mattessa, no. Anche lì sa per fare, andiamo a Piazza d'Età a vedirla, Murelli. E allora, che fa quella con un candavo in Piazza d'Età? Andiamo a vederla, Antonè. Sì, andiamo stamattina a vederla. Speriamo che questa qualche giornata vince la Befana, come si deve, se no, cosa ti posso dire? I soldi della stazione, almeno per quello. Come è stato fortunato uno che ha vinto un miliardo e mezzo. Ma ci vai a vedere a Piazza d'Italia? A maggio vicinetti. Ah? Il vicinetti non maggio, quindi no, non mi interessa. Sì, che stai per fare di casa, così è. E allora, adesso che in casa me ne sono. Ero più bello. Certo. Non c'è andato a venire a Cogio, che c'è cantante, no, a Capolano. No, quello proprio. Ah, e tu adesso sei andato lì? No, non sono andato, no. Credo che sia mio fratello, ce la faccio andare a vedere, c'è una mia, se la piglia in culo, è conto mio. Sono rimasto insieme a lui fino alle 3:30, una cosa del genere. Qui, figurati, stavo pensando a Gianni Landini, c'era un suo biglia in culo. Te ne so, sto ragionando. Vuoi devi accompagnare fratello. Allora, quando non si può. Poi, siamo riuniti in fretta così, ai piedi. E poi, con tutta la vita, una attaccata all'altro, cazzo, mamma mia, come fai, cazzo? A farsi pegare il portafogli, non lo saranno. Cazzo, di me in casa, e poi l'avevo visto in televisione. L'ho visto anche io in televisione, tutto via Roma, eccetera, tutto tutto pieno, via Piazza d'Italia. Si sa porta quelli che hanno rubato la notte, i rumini. Crocro. Ma sono tranquillo che Romeo non l'hanno bloccato. Ah, certo, il mio non l'ho toccato il portafogli perché sono uscito, quindi a un certo punto poteva toccare quello degli altri, a meno che non mi avessero toccato in mezzo alle gambe. E ha detto, mica c'è un portafoglio, vieni che te lo do in mano, vieni, ha detto, andiamo dall'angolo che lo succhi. E dice che c'è lo schermo di fronte al tribunale, c'era lo schermo grande, c'era. Allora, così mi hanno detto. No, già è vero quello comunque. C'era lo schermo grande lì di fronte al tribunale. Perché non c'era posto, era pieno, pieno, che non c'è stato alcun uovo. No, un attimino, riprendi tu che io con gente. Sì, allora. Non ce n'era uno, ce n'erano tre, uno in via Roma, uno all'emiciclo Garibaldi e uno in piazza Castello. Figurati, la voglia di gente che c'era andata, grazie a Dio. Molto meglio di Campus, la Mela Verde, cazzo, che ha fatto una cagata, ha fatto quando c'era lui. Ha fatto una figura di merda l'anno scorso, anzi, quest'anno ha fatto una figura di merda, detto. Perché il sindaco, è stato, quello di oggi è stato molto molto più furbo di lui. Hai capito, i soldi li ha spesi come si deve, bene, ma spesi bene. Ho fatto gli ordinari, gli ferani, era il dottor Lascito suo, erano. Oh, vabbè che la regione ha stanziato i soldi per fare queste cose qua, ecco cosa è. Il più alto di tutti il prezzo era Sassari, il più alto di tutti. E vabbè, ma me non ho lavorato il bar, più che altro, capito? Il bar che c'erano in via Roma, eccetera, eccetera, non ho lavorato bene. Vabbè, non ti potevi portare di casa a casa, ma almeno al bar potevi tranquillamente andare a berti un bicchiere di birra, un bicchiere d'acqua, quello che è, quindi hanno guadagnato fino alle 3, cioè, o fino alle 2, adesso non mi ricordo, poi c'era il tram, grazie a Dio, quindi mica sarebbe a piedi, da quando è mezzo cotto, pigliavi, sarebbe direttamente entrati e accompagnavano di là. Se c'erano le cose, i tra c'erano, che partivano da via Lomberto, in un certo punto è mi ciclo da altri posti, dovrei tornare nei posti cade Carbonazzi, a Coso, Lune Sole, un sacco di giri facevano. Sei a Giomarì. C'è un ciclo che ci ho detto, dai, ci sentiamo alle prossime, buon prosciutto. Ciao anche Antonello, là. Antonello riprendi che io chiudo. Io, ciao Giomarì, ci sentiamo, stai bene, saluti belli. Ci sentiamo domani al limite, ok? Ciao Gianmarì, stammi bene, alle prossime, ok, ciao. Avanti ancora. Ehi, mi sto usando le cose. Il 140 con lineare. Adesso sono quasi 40, 42 watt e 43. Non ce n'è bisogno, no, minchia. Anche se esci normale ti sento lo stesso io. E vabbè, ma è più caso per usarlo, capito? Anche perché l'apparecchio tipo fermo, questo lineare qua, 26 settamente, come si chiama, lo speed della CTE. E quindi già sta andando, sta pompando. 45 watt ci sono tondi, sto pilotando con 2 watt e mezzo. No, io non ho bisogno di usarlo. Questo è già forte di sé la radio. Sì, vabbè, vai più che altro lì. Mi fanno scaldare, era parecchio tempo che non lo usavo, il lineare. Almeno pilotto, sono tranquillo. Sì, vabbè. Aspetta un attimino, Antonio. che mi stanno chiamando. Ehi, d'accordo, non c'è problema. Antonello! Dove ci sei, sì. Figlia, ma ci sono, ma ti devo lasciare. Sì, va bene, dai, io mi stavo al piano focolare, in fretta. Ho dovuto mollare tutto immediatamente perché sentivo già un odore di bruciato. Sono andato lì e meno male sono riuscito a salvarla. Venturato. Ti ho distratto. Ok, dai, ci risentiamo, Antonio, alle prossime, ok. Ciao, Antonio, stammi bene. Ehi, ciao, to. Ci sentiamo domani, arrivederci. Stammi bene anche tu. Sì, ok, ciao. Ciao, ciao.